in primo piano. Buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Come sapete, il Sole 24 Ore del lunedì è a tutti gli effetti un numero di approfondimento. Due inchieste le avete sentite citare anche nel GR, quella sulla mobilità poco verde e quella del venture capital, che cosiddetto capitale di rischio letteralmente, che è sostanzialmente il fatto che gli investitori che hanno, possono essere quasi sempre, sono quasi sempre privati quando si parla di venture capital, decidono di investire in alcune aziende e così evitano per esempio che le aziende ricorrano esclusivamente ai prestiti bancari. E in questo caso la buona notizia è che per molti anni il venture capital ha finanziato aziende del nord, mentre adesso il rapporto dell'AIFI, ci racconta Chiara Bussi a pagina 9, l'associazione italiana del settore, ha certificato che questi capitali vanno anche ad aziende del sud. L'apertura principale però è ancora un'altra inchiesta che poi trovate alle pagine 2 e 3. Come ricorderete, settimana scorsa è stata approvata una legge che in teoria dovrebbe essere approvata una volta all'anno e invece ci ha messo quasi 3 anni. In ogni caso la legge sulla concorrenza, e secondo una prima analisi che si può fare di questo provvedimento, con tutti i piccoli e grandi cambiamenti che ha subito nell'iter parlamentare, dagli avvocati alle farmacie una spinta alle aggregazioni. La legge approvata la scorsa settimana punta a favorire la nascita anche di società di capitali. E poi, sempre in tema di inchieste, dalla prima pagina e poi la trovate a pagina 7, un'inchiesta di Roberto Galullo, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, si occupa dei rifiuti e delle cosiddette ecomafie o ecoballe, quella sporca risalita dei rifiuti verso il nord. Prima pagina del Corriere della Sera a questa notizia dell'inchiesta sugli appalti pilotati. È un'inchiesta di cui abbiamo già sentito parlare, naturalmente riguarda la Consip, la centrale appunto unica degli acquisti. Secondo i pubblici ministeri, che hanno continuato a lavorare anche dopo le notizie degli scorsi mesi, c'è stata una vera e propria turbativa d'asta. Il sottosegretario all'economia Morando, che era sottosegretario anche durante il governo Renzi, in un'intervista al Corriere dice: i manager li abbiamo cambiati, non sono stati fatti passi indietro, continueremo a cercare di fare ordine, di rendere più trasparente tutte queste procedure d'appalto. Intanto però ci sarebbe un accordo, un patto a tre legato a Commesso, una sorta di cartello per aggiudicarsi gli appalti, coinvolge questa cifra monster, 2,7 miliardi. Naturalmente in prima pagina c'è anche la questione dell'ONG, del codice per l'ONG voluto dal nostro ministro degli interni Marco Minniti, e come sapete alcune organizzazioni non governative hanno rifiutato di firmarlo, e quindi si continua a discutere di questo. Con il Corriere della Sera, come ogni lunedì, c'è l'economia, il supplemento l'economia. In copertina, da quando c'è stato questo restyling dell'economia, c'è sempre una foto molto grande di un intervistato, e questa settimana è Alessandro Benetton, seconda generazione della dinastia dei Benetton, che racconta molte cose. Vi leggerò in particolare una domanda appena dopo la pausa sul traffico, sul passaggio generazionale, che è un tema così importante per le nostre imprese, per la nostra economia. Alessandro Benetton appunto ha affrontato il passaggio generazionale, ha capito che non c'era lo spazio che lui avrebbe voluto all'interno dell'azienda, e quindi si occupa della sua società che si chiama 21 Investimenti. E sì, una dei tanti temi affrontati nell'intervista di Raffaella Polato è: vi racconto l'economia sostenibile. Ci lasciamo però un attimo per una prima pausa sul traffico. No, non c'è ancora. Ne approfitto allora per leggervi questa domanda che vi dicevo sul passaggio generazionale, che è un tema che a me è molto caro, perché naturalmente ha dei risvolti economici, ma soprattutto, come possiamo dire, culturali e sentimentali. Il passaggio generazionale è sempre difficile. E allora chiede Raffaella Polato a Alessandro Benetton: Alcuni imprenditori sono o erano alle prese con i problemi di ricambio generazionale. Grande o piccola che sia la famiglia, che l'impresa sia una multinazionale oppure faccia poche decine di milioni di fatturato, il passaggio è sempre complicato, tanto da mettere a rischio a volte lo stesso successo faticosamente costruito negli anni. Perché succede? Perché le famiglie a un certo punto diventano cieche? E risponde Alessandro Benetton: perché è umano, perché ognuno di noi si identifica con quello che ha costruito, perché c'è un coinvolgimento emotivo che alla fine diventa il limite, ma all'inizio è anche il plus dell'economia italiana, l'elemento che consente la nascita di tante attività di successo, solo che arriva sempre, per tutti, il momento in cui, guardando avanti, occorre accettare le ragioni del rinnovamento. È difficile staccarsi da quel che si è inventato, lo capisco, ma non è come voler riconoscere le doti di un figlio solo perché non si incastrano nel meccanismo che tu hai creato. Lo vedo spesso, mi creda, ed è l'altra faccia del rifiuto del cambiamento. Poi è vero che si vedono altrettanto spesso figli incapaci e presuntuosi. Nell'uno e nell'altro caso, però, a dettare le regole è un dettaglio. Il cambiamento non lo puoi rifiutare, o lo governi e possibilmente lo anticipi, o ci sarà comunque senza di te. Adesso però c'è il traffico, ascoltiamo questi aggiornamenti. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie agli ascoltatori che stanno già mandando messaggi al 349-238-6666 o sms o whatsapp, e all'ascoltatore che ci scrive da Reggio che mi chiede chi coinvolge questa inchiesta. Le tre aziende che appunto sono accusate di aver fatto cartello e per aggiudicarsi un appalto da 2,7 miliardi con tutti i necessari favoritismi sono il consorzio CNS, Manutencoop e Quadra, e l'inchiesta è della Procura di Roma. Trovate tutto sui giornali di oggi, in particolare vi ho segnalato il Corriere della Sera. Dicevamo del passaggio generazionale sul Corriere Economia, visto che Alessandro Benetton rispondeva proprio a una domanda e dava la sua opinione su perché il passaggio generazionale è così difficile. Ce n'è uno in atto, e lo racconta il Corriere a pagina 22 e 23, Alessandra Puato, ed è quello all'interno della famiglia Colaninno, e in questo caso in particolare della Piaggio, di cui Roberto Colaninno è presidente e CEO, amministratore delegato dal 2003. Sarebbe pronto il passaggio di testimone al figlio di Roberto Colaninno, che si chiama Michele, dice il super manager: sarà lui a prendere il mio posto, curerà il debutto dal prossimo anno del modello a propulsione mista sul quale la multinazionale di Pontedera punta per dare la svolta a tutta la produzione. E trovate questo racconto alle pagine 22-23 del Corriere Economia. La prima pagina della Repubblica invece ha un'apertura ancora diversa, anche se anche sulla Repubblica c'è l'inchiesta Consip, perché prosegue un'altra inchiesta, quella sulle banche, non le banche venete che sono l'ultimissimo salvataggio, e sapete, probabilmente ad opera una specie di mix, vedremo quanto di successo, tra pubblico e privato, perché ci vorranno soldi pubblici, e poi c'è l'impegno di Banca Intesa. Ma le altre banche, quelle salvate alla fine del 2016 per evitare che entrassero in vigore le norme dell'Unione Europea che impediscono questi salvataggi. Il caso più spinoso è quello di Banca Etruria, perché di Banca Etruria il presidente era il padre del ministro Maria Elena Boschi. Etruria, ecco le multe della Consob. Forse così, con appena un attimo di ritardo sono arrivate queste multe della Consob, così la banca ingannava i clienti. Totale delle sanzioni erogate 1 milione, e per esempio il padre di Maria Elena Boschi dovrà versare 40.000 euro. Peanuts, come dicono gli americani, noccioline rispetto ai buchi di queste banche, Etruria compresa. La fotonotizia è dedicata però al maltempo che ha colpito il nord Italia ieri. In particolare la foto scattata qui è in Valpusteria con le persone al lavoro per liberare le case dal fango. La Stampa invece, non invece, un po' come fa il Corriere della Sera, ha un titolo sia sul sistema Coop nelle commesse Consip, perché anche le Coop sono sotto accusa, sia sulla questione delle ONG. Migranti riportati in Libia, c'è una crepa nel governo, mediazione di Gentiloni, perché sapete che tutto questo lavoro di diplomazia e non solo fatto dal ministro Marco Minniti da quando è entrato in carica con il governo Gentiloni ha portato per esempio a quella famosa cooperazione con le forze libiche che hanno rimpatriato 500 migranti ancora prima che o venissero intercettati dalla Guardia Costiera o da una nave delle ONG o che arrivassero in Italia. Ma in questo caso perché si parla di questa crepa? Perché il vice ministro degli esteri Mario Giro ha in qualche modo criticato questo, Minniti si è risentito e da qui la mediazione di Gentiloni. L'eterna vicenda di Lady Diana, siccome nel 31 agosto saranno esattamente 20 anni dalla sua morte, oltre ai libri per questa abitudine molto umana, se vogliamo, di ricordare quando c'è una cifra tonda, quindi appunto 20 anni, da qui libri e in particolare un documentario che è stato trasmesso ieri, era molto atteso dalla BBC. Non c'è niente di nuovo se non che ci sono le ennesime rivelazioni su quanto Diana, penso come ogni persona che divorzia, abbia sofferto per il divorzio, i sentimenti verso la suocera che è la regina Elisabetta, e sicuramente insomma una storia che ha appassionato e continua a appassionare, tanto che la racconta Vittorio Sabadin a pagina 16. Il Messaggero, navi ONG, duello nel governo, quindi anche in questo caso viene evidenziata questa possibile prima spaccatura sulle politiche per l'immigrazione, contro l'immigrazione clandestina portate avanti dal ministro Minniti. Un accenno anche alla vicenda della Consip, ma proprio visto che parliamo del ministro Marco Minniti e di come la politica contro l'immigrazione clandestina ha avuto una decisa svolta da quando lui si è insediato al Ministero dell'Interno al posto di Angelino Alfano, c'è un suo intervento sul Messaggero. In questo caso però parla della riforma dei servizi, che è un altro dei tanti dossier, delle tante riforme necessarie e in fieri nel nostro paese. Il Giorno ha una copertina diversa dedicata a quel fatto di cronaca terribile di questa modella inglese che si chiama Chloe Ayling, che era stata rapita e era stata minacciata di essere venduta come schiava del sesso. E alle pagine 2 e 3 rilascia una lunga intervista intitolata All'inferno e ritorno. Ma vi segnalo dalla prima pagina anche un'altra questione. Ieri era sui giornali, anche l'altro ieri, ed è del sindaco, di questo sindaco PD, una donna di un paese del Ferrarese, che aveva, come possiamo dire, un po' così, con forse non proprio le parole più adatte, dette che chi ospita i profughi deve essere tassato maggiormente. Questa questione di chi ospita i profughi in alcuni paesi, soprattutto piccoli, andrebbe spiegata molto bene, perché per esempio io conosco il caso della Valtellina, ci sono degli albergatori per esempio che ospitano questi profughi. Bisognerebbe veramente capire in che modo, con che fondi e dando in cambio che cosa. Sono temi che andrebbero appunto affrontati nel merito e non per queste frasi, che forse effettivamente questo sindaco ha usato le parole sbagliate. Adesso ci sono già membri del Partito Democratico che dicono deve chiedere scusa, oppure noi lasciamo il partito, lei deve lasciare il partito, ma entrare nel merito mai, o quasi mai. Il Secolo XIX invece ha una... Sapete che il Secolo XIX appartiene alla stessa Società della Stampa, quindi anche in questo caso il titolo principale è dedicato alle cosiddette scintille nel governo. Ma visto che abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi delle proteste che ci sono in Italia, ma non solo, anche in Spagna, sul turismo che sta raggiungendo proporzioni, soprattutto in estate naturalmente, difficili da gestire, va gestito in modo diverso rispetto al passato e non soltanto in città delicate e particolari come Venezia, ma in generale in Europa. E allora vi segnalo questa rubrica di Claudio Paglieri intitolata Alto Adige, Alta Civiltà. Assalti ai bus dei turisti a Barcellona, rivolte dei residenti a Venezia e Amsterdam, inglesi ubriachi messi al bando dal sindaco di Palma di Maiorca. C'è qualcosa da rivedere nel turismo moderno, Liguria compresa. Eppure un'altra vacanza è possibile, per esempio nell'Alto Adige, che è riuscito a difendere la sua identità da 100 anni di dominazione, tra virgolette, italiana. Il laghetto di Fiè, per dire, non è meno frequentato dei laghetti della Val Varenna, ma dimostra che folla e disordine non sono necessariamente sinonimi. C'è un parcheggio a pagamento, si usa quello. Non esiste che un'auto sia lasciata a bordo strada o fuori posto. C'è un bar, bagni, docce, niente fuochi liberi né grigliate. I turisti sono in maggioranza tedeschi e i luoghi comuni su di loro si dimostrano fortunatamente fondati. Da 0 a 3 anni i bambini paiono sordomuti, a 4 sono perfettamente in grado di badare a se stessi, a 6 anche ai fratelli. Lo stesso non si può dire dei bambini italiani e dei loro genitori, per i quali servirebbe forse un servizio militare con formula svizzera, 20 giorni all'anno di ripetizioni in Sud Tirolo e un bel po' di compiti da fare a casa. Il giornale ha un'intervista di 3 pagine a Silvio Berlusconi, che è anche il titolo della copertina del giornale. Ecco cosa farò, i piani del Cavaliere su coalizione, governo e tasse. E a Renzi dice si dia una mossa sulla legge elettorale. Poi vi segnalo dalla prima pagina, trovate poi tutto a pagina 21, anche un approfondimento di Cinzia Meoni su quello che è lo stilista italiano più famoso nel mondo, che è Giorgio Armani. Ha compiuto 83 anni, non c'è di fatto un successore, però Giorgio Armani nei mesi scorsi in particolare ha dato vita a una fondazione, ha fatto appunto alcune mosse per, dice Cinzia Meoni, blindare la successione. Il Foglio Quotidiano, sapete, il lunedì anche in questo caso è meno legato alla cronaca e più agli approfondimenti, vi segnalo l'articolo di Giuliano Ferrara, molto interessante secondo me, come del resto erano quelli di sabato del direttore del Foglio Claudio Cerasa e il commento di Giuliano Ferrara, l'umanitarismo che crea un mondo di vittime. La questione naturalmente è quella delle ONG, soprattutto quelle che si ribellano al codice, come Jugendrecht, quella tedesca, la cui nave è stata sequestrata. Libero ha una copertina, devo dire, un titolo azzeccato, insomma divertente. Torna a casa Lesso. Allora, il Lesso in questione non è una carne, ma è Angelino Alfano. E dopo aver galleggiato in diversi pentoloni forestieri, scrive Libero in prima pagina, l'articolo poi di Renato Farina, Alfano ora può dare al centrodestra i voti necessari per vincere in Sicilia, ma Salvini, Meloni e molti altri non lo rivogliono. Riprendersi Angelino non è il massimo, però vale la pena. Se Renzi va KO anche a novembre, e il riferimento è alle elezioni regionali che si terranno in Sicilia il 5 novembre, dovrà cercare un'intesa sulla legge elettorale con Silvio. Il Fatto Quotidiano anticipa un'altra inchiesta su un'altra ONG che è Save the Children, questo è la in copertina sul Fatto Quotidiano. Poi vi segnalo come ogni giorno le prime pagine di alcuni giornali stranieri, cominciando dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, che in questo caso dedica in prima pagina, c'è un tema, se vogliamo, locale, che è quello della Bassa Sassonia, però è interessante perché è un'estensione dello scandalo Volkswagen, che sappiamo coinvolge tutta l'industria automotive tedesca e forse non solo. Infatti il Land della Bassa Sassonia detiene il 20% delle azioni appunto della Volkswagen. All'interno poi ci sono molti approfondimenti e vi segnalo in particolare un'intervista a Theo Weigel su Angela Merkel, sui suoi inizi come politica, e dice all'inizio Angela Merkel era una donna timida, poco conosciuta, ma poi naturalmente ha fatto tutto il suo percorso. Ci lasciamo un attimo e poi vediamo anche qualche altra prima pagina di quotidiano straniero. in primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ben ritrovati alla rassegna stampa dei quotidiani italiani. Grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi e all'ascoltatore Pierpaolo da Bologna che con una certa ironia mi chiede chi decide chi sono le parole giuste. Io ho detto parole giuste nel senso parole che non si prestino a essere fraintese. Mi riferivo naturalmente al sindaco, alla prima cittadina di Codigoro in provincia di Ferrara, ha detto che chi ospita i profughi, o anche qui il termine viene contestato da alcuni ascoltatori, diciamo gli immigrati, dovrebbero pagare le tasse. Vedremo poi, perché come vi dicevo solo il giorno oggi torna con un lungo articolo su questa vicenda e lo vedremo dopo se abbiamo tempo, ma eravamo sulle prime pagine dei giornali stranieri. Le Figaro ha un'inchiesta su come hanno fallito nei mesi passati i sistemi di allerta alla popolazione per quanto riguarda gli attentati, quindi un'autocritica del Ministero degli Interni francese. Il Washington Post si concentra invece su un reportage, lo mette in prima pagina, da Gaza e chiama i giovani di Gaza una wasted generation, una generazione perduta. Infatti fanno fatica a trovare lavoro e pensate che il tasso di disoccupazione nella striscia di Gaza è del 60% e uno dei peggiori, spiega il Washington Post, nel Medio Oriente e in tutto il mondo. Trapped, jobless and bored, imprigionati senza lavoro e annoiati, questa wasted generation. El País dedica la copertina a tutto quello che sta succedendo in Venezuela e poi ha un articolo anche sull'Italia che cerca, scrive El País, di porre un limite agli eccessi del turismo. E poi quello che viene definito il triplete spagnol ieri nella gara di Brn del MotoGP. Invece il Guardian si concentra su una notizia che tra i nostri quotidiani ha solo Repubblica, che è quella delle dichiarazioni di Carla Del Ponte, che era stata incaricata dalle Nazioni Unite di indagare su quello che è successo in Siria, ma ha di fatto gettato la spugna dicendo «We are powerless», non riusciamo a fare niente perché non abbiamo accesso alle informazioni. E veniamo alle pagine interne delle inchieste del lunedì. Abbiamo detto quella sui rifiuti di Roberto Galullo, quella sporca risalita dei rifiuti verso il nord, pagina 7. Un interessantissimo approfondimento sulla riforma del terzo settore, che sappiamo in Italia coinvolge tantissime persone, ce la offre Valentina Melis a pagina 6 del Sole del lunedì. E poi questo articolo che a me è piaciuto molto, in realtà sono due, uno di Anna Maria Caparelli che si occupa spessissimo di temi di agroalimentare per il Sole 24 Ore e poi un caso raccontato da Marco Biscella, quello delle fattorie Osella. Qual è il tema? Che adesso il settore, l'agroalimentare, investe sul benessere degli animali. Dal settore avicolo alla GDO crescono i prodotti, tra virgolette, etici. E forse qualcuno avrà notato anche in alcuni supermercati che cominciano ad apparire queste specifiche quando si può certificare che i prodotti come le uova, ma naturalmente anche i salumi, la carne, vengono da allevamenti dove si certifica che non si tratta di allevamenti intensivi, ma dove si ha qualche attenzione in più per il benessere degli animali. L'agenda del professionista è arrivata alla sesta puntata e la puntata di oggi è dedicata alla prima casa, con tutte le norme, quindi lo sconto su IVA e registro, le condizioni d'accesso e il credito d'imposta, pagine 16 e 17 del Sole di oggi. Vi segnalo, perché ce l'hanno quasi tutti i giornali, questa notizia che è stata data ieri dal Telegraph, che non è il giornale più prestigioso della Gran Bretagna, ma non è neanche un tabloid, che il Regno Unito, quindi Theresa May, premier dal 2016, sarebbe disposta a dare 40 miliardi per la Brexit. In realtà oggi i quotidiani inglesi, a partire dal Guardian, smentiscono decisamente, dando voce a una smentita ufficiale del governo, che questa notizia sia vera. Però intanto la notizia, con un giorno di ritardo, si è guadagnata le pagine dei giornali italiani. Quindi Brexit, Londra offre 40 miliardi di euro, ma appunto non sarebbe vero. Sul cambiamento climatico, vi segnalo, visto che c'è ancora chi dice che non esiste il cambiamento climatico o comunque dice che non è l'uomo il responsabile, una notizia di cronaca incontestabile viene dall'Alto Adige, dal Passo dello Stelvio, dove poiché il ghiacciaio ormai ha ceduto, dopo 90 anni non si potrà più fare sci estivo al Passo dello Stelvio. Trovate la notizia sul Corriere a pagina 18. Questo è un tema che credo sul quale ogni donna che ha un lavoro fuori casa, perché naturalmente io considero un lavoro a tutti gli effetti quello delle donne che lavorano a casa come madri o compagne o mogli, ma chi ha anche un lavoro, come dico io, un secondo lavoro fuori casa, credo che su questo possa dire qualcosa. Il titolo dell'articolo di Elena Tebano è «La peregina in ufficio», prende spunto da alcuni studi e in particolare da alcuni articoli che sono usciti di recente sui giornali americani. Le donne sono più aggressive con le colleghe. C'è uno studio americano che appunto dell'Università di Michigan che darebbe dati su questo e alcuni psicologi che dicono ma no, sono solo pregiudizi. Io personalmente credo sia vero, però ripeto, ognuno poi ha la sua esperienza in questi temi. Vi segnalo dalle pagine interne della Cultura del Corriere della Sera una bellissima intervista di Luca Mastrantonio a Charles Simic, che è uno dei più grandi poeti viventi, è un poeta polacco, ha vinto il premio Pulitzer e è sicuramente un possibile premio Nobel per la letteratura nei prossimi anni, anzi si era già fatto il suo nome in passato. Il titolo dell'intervista è «Poesia e humor in pericolo. Il politicamente corretto uccide la creatività perché ha paura di tutto e non conosce l'ironia». E, tra l'altro Adelphi, che ha pubblicato quasi tutti i suoi libri, ha appena pubblicato appunto un altro dei libri di Simic. Visto che lo trovate ancora in edicola e che ieri non abbiamo parlato perché ci siamo concentrati su altri settimanali, vi segnalo la copertina della Lettura del Corriere della Sera, affidata come sempre a un artista, questa settimana è Giorgio Ortona, e dall'interno vi segnalo un articolo di Kevin Mulligan, si intitola «Il tempo si fa in quattro, ma forse è solo un'illusione». Il tempo, questo sconosciuto potremmo dire, o questa entità su cui siamo costretti a interrogarci, ma che nessuno, neanche i più grandi fisici o astrofisici o filosofi, hanno saputo davvero definire. E quindi l'articolo molto interessante dice: le scoperte della scienza stimolano il dibattito tra differenti scuole di pensiero. Per alcuni esiste solo il presente, per altri conta la prospettiva di chi osserva. C'è chi dice che la fisica non coglie la realtà e chi invece si ispira alla gravità quantistica. Quest'altro articolo lo trovo interessantissimo perché poi in qualche modo ha a che fare col tempo. È di Vincenzo Trione, critico d'arte, ma è stato anche curatore del Padiglione Italia della Biennale, e si chiede, ma esattamente quando inizia l'arte contemporanea? Perché naturalmente parliamo spesso di arte moderna, di arte contemporanea, però passano gli anni, ciò che era contemporaneo 10 anni fa lo possiamo considerare contemporaneo anche oggi, o dobbiamo creare un nuovo termine tipo post-contemporaneo? È interessante, insomma, perché appunto uno storico dell'arte, un critico d'arte che si domanda in relazione al tempo che passa come cambiano le definizioni. Visto che appunto ieri non abbiamo avuto tempo, comunque vi segnalo la copertina della domenica del Sole 24 Ore, non l'ho trovata in edicola ma trovate alcuni articoli su internet. La copertina è dedicata, è di un lungo pezzo di Armando Cavazzoni che si chiede chi ha iniziato a dire cheese, che vuol dire formaggio naturalmente, ma è una parola che se pronunciata ci obbliga, tra virgolette, a fare un sorriso e quindi viene spesso usata quando si vuole fotografare qualcuno e lo si vuole far apparire felice e sereno. Vi dicevo, Repubblica è l'unico quotidiano che dà conto delle dichiarazioni di Carla Del Ponte, che è un magistrato svizzero, però si è a 70 anni, ma ha un curriculum incredibile, è stata anche collaboratrice di Giovanni Falcone, è da sempre impegnata sul fronte del riciclaggio, sulla mafia, e è stata procuratrice del Tribunale Penale Internazionale per la guerra nell'ex Jugoslavia. Dal 2012 è nella Commissione dell'ONU sulla Siria e appunto ieri ha detto dopo 6 anni di inchieste non c'è ancora un tribunale internazionale, io non so a questo punto come poter dare un contributo vero. C'è gente allo stremo, per l'ora non facciamo nulla, non individuiamo e puniamo gli autori dei crimini. Questa invece è una pagina decisamente da mani sul volante. Si scopre che dai cellulari in dotazione alle amministrazioni pubbliche sono partite migliaia di chiamate verso numeri che di istituzionale non hanno niente. Totale del danno 8 milioni di euro, che uno può dire sì, certo, confronto a una finanziaria sono, come dicevamo prima, peanuts, ma vi rendete conto? 8 milioni di euro di telefonate ai numeri speciali, agli oroscopi, ai call center a pagamento, anche naturalmente ai siti porno. Ecco, sarebbe interessante capire se poi qualcuno verrà punito, almeno toglietegli il telefonino, si potrebbe dire. Lo studio sul traffico di oltre 400.000 SIM, ci sono le prime dichiarazioni dei politici. Ah, una cosa incredibile, sono fatte anche le donazioni via SMS, cioè il parlamentare o il funzionario pubblico che ha in dotazione questo telefono fa una dotazione, ma con i soldi nostri, a nome suo. E vabbè, ditemi se non è da mani sul volante. Pagina 7 della Stampa, un approfondimento su un altro grande scandalo, questa volta assicurativo, degli anni scorsi, che è quello che riguarda Fonsai. Quei nomi eccellenti tenuti fuori dall'azione di responsabilità. È una vicenda che appunto ci racconta la Stampa. Trovate tutto di Gianluca Paolucci con questo retroscena a pagina 7. E i coinvolti sono Salvatore Rigresti, che è stato azionista di controllo di Fonsai fino al suo dissesto. Ci sono in ballo, pensate, 245 milioni. Vi segnalo, a proposito di Africa, perché abbiamo detto ci sono state parecchie elezioni in Africa di cui così tutti si sono occupati un po' in modo abbastanza superficiale. Adesso non si tratta di un'elezione, ma dell'ennesima crisi in Africa, questa volta nella Repubblica del Congo, dove c'è un'escalation di violenza. E l'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite dice, in realtà, più che escalation di violenza, possiamo parlare di pulizia etnica. Scontri tra governo e opposizione, gli sfollati sono già 1 milione. E poi, visto che si è parlato tantissimo, soprattutto alla luce dell'assegnazione ufficiale dei giochi del 2020 a Parigi e del 2024 a Los Angeles, si è parlato molto del gran rifiuto fatto dalla giunta Raggi alla candidatura di Roma ai giochi olimpici. Il responsabile della commissione del gruppo di persone che promuovevano la candidatura di Roma, cioè Malagò, ha detto: vedete che invece come Parigi esulta. Questo reportage ci dovrebbe far riflettere. Il Brasile non è l'Italia, però quello che emerge dall'inchiesta di Emiliano Guanella, Rio de Janeiro, dai fasti olimpici ridotta alla bancarotta e alla fame. La maggior parte degli impianti sono abbandonati o chiusi, dipendenti pubblici e pensionati non ricevono soldi da aprile. E tra l'altro noi abbiamo sempre nella nostra storia, ma questo è un paese con una memoria scarsissima, i mondiali del 90, dove successe praticamente la stessa cosa. La maggior parte degli impianti poi andarono in rovina. Ci lasciamo un attimo per la seconda pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie ancora a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666. Continuano anche i messaggi adesso lo vedremo sul Giorno, sulla questione di Codigoro e del sindaco PD che ha suscitato così tante polemiche. All'ascoltatore che chiede su quale giornale era il piccolo articolo sul turismo in Alto Adige, è sulla prima pagina del Secolo XIX, che è il quotidiano di Genova. Ma vi dicevo appunto, parliamo un attimo di questa vicenda del sindaco di Codigoro, Alice Sabina Zanardi. C'è un ultimatum del primo cittadino di Ferrara, che è del PD e anche dal segretario provinciale del PD, o se ne va o lasciamo il partito addirittura. Quello che naturalmente poi ieri la Lega di Salvini, di Matteo Salvini, ma anche una forza di estrema destra come un partito di estrema destra, come un movimento politico di estrema destra, come Forza Nuova, hanno addirittura proposto, hanno dato si sono detti d'accordo con le parole di questo sindaco e addirittura Forza Nuova le ha proposto una tessera ad honorem, quindi polemiche su polemiche, e come dicevo si dimentica di parlare del perché il sindaco ha fatto queste dichiarazioni. E tra l'altro c'è un ascoltatore proprio di Codigoro che ci scrive e dice: venite a Codigoro a vedere in quanti pochi siamo rimasti qui abitanti di Codigoro. E vi leggo a questo proposito il commento di Sandro Rogari a pagina 4 del giorno di oggi. Due anime e un disagio si intitola. La dichiarazione del sindaco di Codigoro, che evoca l'imposizione di più imposte per i cittadini che ospitano immigrati, è certo infelice. È facile obiettare la non fattibilità del proposito, se non altro perché un'imposizione fiscale differenziata non rientra nella discrezionalità di un sindaco, per fortuna. Ma è evidente il disagio. Sul fronte dell'accoglienza ci stanno i sindaci. I prefetti rispondono solo al ministero. Né si può dire che Codigoro non sia stato accogliente. Ora il prefetto di Ferrara ha firmato un accordo con un privato per collocare altri immigrati a Codigoro. L'argomento condivisibile del sindaco Zanardi è che così si va fuori quota, il fatidico 3 per 1000, quindi altri devono fare la loro parte, ma il caso diviene politico perché le gerarchie del PD condannano la Zanardi. Il sindaco di Ferrara Tagliani fa un out-out, o lei o io nel PD, anche questa è una posizione estrema che serve solo a conclamare le divisioni nel Partito Democratico. Due anime del partito, la ex socialdemocratica Zanardi rappresenta l'anima laica del partito contro l'ex DC Tagliani? Forse è una lettura un po' semplicistica. Certo è che i sindaci rispondono degli orientamenti dei cittadini. Rappresentare la Zanardi come un campione della non accoglienza e invocare un codice di comportamento per le sindache, come fa la ex sindaco di Lampedusa Nicolini, è fuori luogo, anche perché lei ha perso le elezioni. Io davvero auspico che su questo tema dell'accordo tra prefetture e privati per accogliere gli immigrati ci sia un dibattito più sereno, fatto soprattutto alla luce dei numeri. Ma per citare un articolo così un pochino più economico e con dei numeri, per l'appunto, molto bello questo dossier del lunedì del giorno sui nuovi materiali che sono preziosi. Non c'è soltanto l'oro, non c'è il petrolio, non c'è solo l'acqua, per quanto sia chiamata oro blu, ma in questo dossier il giorno ci racconta con Elena Comelli il petrolio bianco, guerre e affari in nome del litio. Il litio, che sapete, è un importantissimo componente anche della maggior parte dei computer. E poi invece un bellissimo reportage, il mio sogno fare questo viaggio, il reportage nel regno dell'orso bianco. L'ha fatto Alessandra Codeluppi, che è andata una settimana alle isole Svalbard nella Norvegia del Grande Nord, sulle navi rompighiaccio Ortelius, dove non c'è nessuna connessione, quindi appunto quando si invoca il detox tecnologico si potrebbe andare alle isole Svalbard e c'è sempre luce. Poi, a proposito di divisione all'interno del PD, alcuni esponenti del PD o comunque del centro-sinistra offrono veramente lo spunto per critiche come queste, perché ieri Furio Colombo sul Fatto ha criticato tutti i comuni che non accettano, come nel caso di Codigoro, comunque a un certo punto chiedono che sia posto un limite al numero di persone che possono accogliere. Colombo fa la morale ai sindaci antimigranti e poi si dimentica della vicenda di Capalbio, di cui Colombo è un assiduo frequentatore insieme a tanti altri del centro-sinistra, lo ricorderete, Capalbio che si rivolta perché erano troppi, pure decisi secondo il famoso criterio deciso dal Ministero degli Interni, erano troppi gli immigrati che dovevano essere accolti da Capalbio, era l'anno scorso. Furio Colombo esattamente un anno fa difendeva quello che il giornale definisce il salotto dei radical chic e oggi però accusa chi non accoglie. Vi dicevo tutta il lungo articolo su Giorgio Armani a pagina 21 del giornale E poi un approfondimento sulla pet therapy, che è sicuramente sempre più diffusa e si dimostra sempre più efficace. In questo caso Claudia Osmetti ci racconta un tipo di pet therapy non molto conosciuta, perché sappiamo che i cani per esempio vengono utilizzati negli ospedali, negli Stati Uniti anche i gatti, o negli ospizi vengono, in Inghilterra, nel Regno Unito per esempio c'è un bellissimo programma per portare gatti piccoli abbandonati negli ospizi, così che gli anziani possano occuparsi di loro e sentano di nuovo una connessione comunque con una vita che cresce. E in questo caso la pet therapy di cui parla appunto Claudia Osmetti su Libero a pagina 15 è quella che utilizza maiali e asini per curare bulli e alcolisti. E poi c'è anche altri tipi di pet therapy, per esempio uno usato nella cura dell'anoressia, un disturbo dell'alimentazione gravissimo che colpisce moltissime ragazze giovani ed è molto difficile uscirne, occuparsi di una gallina per uscire dall'anoressia. Vi prego che nessuno rida, perché sono argomenti serissimi. E poi invece un pappagallo per chi ha problemi neuropsichiatrici, ed è un toccasana per l'autismo. E per quanto riguarda la disabilità vengono usate le giraffe, quindi tutte le nuove frontiere della pet therapy. Il Fatto Quotidiano ha una lunga, è una storia di copertina in realtà, che poi trovate a pagina 6 e 7, la gran bolla finanziaria dell'Italia Football Club. È un'analisi di tutte le società calcistiche, soprattutto di Serie A. Quella delle nostre società, scrivono Stefano Caselli e Marco Maroni sul Fatto, è una situazione fragile. Il sistema ha prodotto negli ultimi 5 anni perdite annuali, pensate, di 385 milioni. Ancora un paio di minuti per segnalazioni così forse un pochino più leggere, e poi neanche fino in fondo in realtà. Per esempio pagina 21, Marco Patucchi, pagina 21 della Repubblica, racconta i ritmi di lavoro e le modalità di lavoro di chi lavora nei grandi centri commerciali o in negozi di grandi catene di tutti i generi, dall'abbigliamento al fai da te al cibo. E qui non è mai domenica, orari non stop, mini stipendi e contratti precari. Nei megastore lavorano 500.000 lavoratori che Marco Patucchi definisce anche invisibili, perché effettivamente hanno dei diritti inferiori a quelli che faticosamente si sono guadagnati altri lavoratori. Il tema principale è anche quello dei turni, che vengono decisi spesso con scarso anticipo, quindi molto difficile conciliare gli impegni fuori dal lavoro con quelli sul lavoro. Un approfondimento sulle meduse, che quasi sempre con le quali quasi sempre abbiamo degli incontri ravvicinati non proprio piacevoli durante l'estate, pagina 23 della Repubblica. Adriatico, casa delle meduse, colpa delle nostre piattaforme. Gli avvistamenti sono aumentati di 10 volte in 6 anni, oltre al riscaldamento globale. Uno studio spiega come l'estrazione del gas in mare abbia favorito la loro diffusione. E invece dalla Stampa un approfondimento su Amazon, il più grande, probabilmente uno dei più grandi portali di e-commerce online. Sapete, ha iniziato come libreria, ora vende di tutto. E l'ultima sfida, racconta David Myers Sonda da New York, è quella della moda. Amazon e Alibaba, che è un po' l'equivalente di Amazon se volete, anche se Alibaba non ha cominciato con i libri ma è altrettanto gigantesco, è l'equivalente cinese di Amazon. Amazon e Alibaba, l'ultima sfida è nella moda di lusso. I due giganti dell'e-commerce hanno strategie diverse ma un obiettivo comune: trasformare la propria immagine creando un'aura di prestigio che ora non hanno. Da Macro vi segnalo, ci sono molti articoli su questo, ma è sicuramente insomma potendo uno spettacolo da vedere. È la Ida firmata dalla regista Shirin Neshat. L'opera di Verdi torna a Salisburgo, conquista il festival con Anna Netrebko voce protagonista e diretta da Riccardo Muti, che dice Aida nell'intimo. Ultimissimo articolo sulla vicenda di Ilaria Capua, quella virologa di fama internazionale che è stata anche deputata dal 2013 al 2016, poi era stata accusata di traffico illecito di virus e rischiava addirittura l'ergastolo. È stata completamente scagionata. Adesso in un libro racconta questa sua odissea, I fantasmi di Montecitorio, e il Foglio pubblicherà alcuni stralci di questo libro. Era l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Carmelo Lauricella in regia. Ancora un buon lunedì a tutti da Giulia Crivelli.